Il canzonetta d'italiano, un uccellino 6, le personalità abilmalti ia retconent. Musica Ines Lombardo. Versi Lemente Zambit. Accompagnata a Min Quartet, canta Mary Rose Mifsud.